so che me ne andrei via da questo gioco disonesto. No, io non vivo qua sola, ma la mia mente già vola. Tu bianchi fiori d'aprile avrai da me se mi respirerai in quest'aria di neve. Tu come l'argine al fiume tu sarai in questo poco sole, in questo poco amore, in questo troppo vento che ci porta via come nuvole. Solo gli occhi, solo gli occhi al mio cielo consumato. Solo gli occhi, solo gli occhi, e tu amore mio dov'è? Quando il sole se n'è andato via. Fiori d'aprile avrai da me se mi raggiungerai con il passo più lieve. Tu come luce al cammino tu sarai in questo poco sole, in questo poco amore, in questo troppo vento che ci porta via come nuvole. Nuvola bella, nuvola vola.